Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti da Nicoletta. Oggi ci mettiamo subito alla prova con una specie di test di autovalutazione. Sentite e poi localizzate. Voi non vi preoccupate, capirete tra poco. Si può sapere che cosa ti passa per la testa, David? In che senso? Nel senso che sei passato col rosso. Ci vuoi fare accoppare tutti e due? Sono un po' alterato in questo momento. Dovrei essere in ufficio fra 8 minuti. Un po' alterato. No! No! Ehi, ehi, calma! Cavolo! Ma porca miseria! Che cavolo fai? Ti devi un po' disalterare. Il mio capo mi fa nero se facciamo tardi, quindi, per favore. Noi procederemo quando tu sarai centrato. Ma io sono centrato, centrato, centratissimo. Su, dai, che c'è una fila di 1 chilometro. Muoviamoci, pazzoide! Poi, dove sentite quella frenesia, mista rabbia, agitazione? Nella pancia o nella testa? Se oltre a rispondere sapete darmi anche una buona motivazione, in diretta dalla libreria di Essere e Benessere c'è un bel libro che vi aspetta. Cambia la tua vita con la PNL di Vallardi Editore. Andiamo al secondo file. Senti, ho deciso. Per il resto della giornata noi dovremo parlare così. Così? No, prego, ripetere con me. C'è troppo pepe sulla mia paprika. C'è troppo pepe sulla mia paprika. Sulla mia paprika. Ma mi piacerebbe piluccare i vostri pasticcini. If they ask me, I could write a book about the way you walk and whisper. Mi piace di più così, ti si vede la faccia. Già, e che faccia? Pronta per il caschetto? Ed ecco la domanda a cui dovete cercare di rispondere per avere un libro, ma anche per saperne di più. Da dove parte il buon umore? Da chi e da che cosa è controllato? Più dalla pancia o dal cervello? Dopo la vostra, se volete mandare la vostra risposta, chiamate all'800 24 00 24 in diretta dalla libreria di Essere e Benessere. Un libro per voi, fiducia totale. Andiamo! Mi è venuta fame con tutte queste storie di cinghiali. Tanto più che è già passato mezzogiorno. Hai parlato a proposito. Adesso per la prova seguente dovrete mangiare tutto il pranzo che vi ha preparato Manneken Pix, il famoso cuoco dei giganti. E anche per la fame, pancia o cervello? 800 24 00 24. E quindi, ricapitolando, abbiamo chiesto da dove parte quell'ansia mista d'aggressività e rabbia, pancia o cervello, il buon umore, la fame. Provate a rispondere, chiamate all'800 24 00 24. Per voi, in diretta dalla libreria di Essere e Benessere, 3 libri. Abbinato alla domanda sulla fame, la vita come tu la vuoi, di Claudio Belotti. Intanto noi abbiamo in linea il professor Piero Barbanti. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno, buongiorno Nicoletta. Primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. È un po' difficile, professore, rispondere a queste domande, perché spesso molte emozioni, molte sensazioni le sentiamo contemporaneamente a livello di testa e di pancia. E credo che la difficoltà derivi dal fatto che cervello e intestino lavorano in coppia e, come succede un po' nella vita, i due partner, chiamiamoli così, si condizionano a vicenda nel benessere e nel malessere. Però, professor Barbanti, dato che qui a Essere Benessere vogliamo stare bene, oggi scopriremo insieme come promuovere e mantenere l'armonia di questa coppia così preziosa per la nostra salute e soprattutto cosa fare per farla superare brillantemente eventuali momenti di difficoltà. Che dice, professore, ce la faremo? Ma direi sicuramente di sì, ed è un'opera meritoria. Chi l'avrebbe mai detto? Il nostro tratto gastrointestinale è l'organo più intellettuale del nostro organismo, si intende dopo il cervello, e lo dico da neurologo, ma è vero, ha un suo sistema nervoso dedicato. C'è un patto d'acciaio, cervello e intestino, però come è successo a volte nelle colonie, a volte la colonia si indipendentizza e si stacca e si ribella allo stato da cui deriva, quindi a volte l'intestino fa le bizze, ma insomma il mandato del cervello c'è quasi sempre, o comunque al cervello il messaggio intestinale o gastrointestinale, per dire meglio, ritorna sempre. Professore, oggi vogliamo dire ai nostri ascoltatori, attenzione, forse quel problema che avverti alla pancia potrebbe essere invece un problema di testa e viceversa. Sì, direi soprattutto di guardare alla riproducibilità dei problemi di pancia. È scontato che un soggetto che abbia una gastrite ogni tanto o un fenomeno colitico non debba essere necessariamente inquadrato come un soggetto in qualche maniera, permettiamoci un vecchio termine in disuso, psicosomatico. Ma se il cane continua ad abbaiare senza mordere, cioè se coliti ricorrenti, gastriti ricorrenti, ovviamente che siano state ben indagate da gastroenterologi, hanno libero spazio e continuano a manifestarsi, beh, chiediamoci per caso se non sia il nostro sistema nervoso, quello vegetativo, quello più antico e più occulto, a bussarci alla spalla, a dirci non cambiare solo alimentazione, cambia lo stile di vita. Perché l'intestino è portavoce delle emozioni della testa. Sì, l'intestino fa da portavoce certamente delle emozioni, ma delle emozioni più sottintese, meno espresse, e questo sia in acuto, pensiamo alla diarrea emotiva, e sia cronicamente, magari con in forma di stipsi alternata, magari a diarrea nelle forme croniche, nel colon irritabile. Ma, e mi piace dirlo da neurologo, l'intestino è anche il portavoce del dolore della testa. Chissà se al telefono, sono io, se per radio c'è qualche giovane madre o se no qualche giovane ascoltatore che ogni tanto sente dolori violenti addominali per i quali si deve svegliare di notte, riproducibili, costanti, senza che ci sia nulla. Beh, esiste un'emicrania chiamata addominale in cui la testa non fa male, fa male violentissimamente, senza una causa sottostante, lo stomaco e l'intestino. Quindi veicola l'intestino emozioni e dolori, quindi è croce e delizie. Walter ci chiama da Napoli all'800 24 0024. Buongiorno Walter. Buongiorno a tutti. Siamo qua per lei. Io ho ascoltato l'opinione del vostro ospite, sono completamente d'accordo. Bene. Noi consideriamo qui, anche qui a Napoli, la testa il laboratorio e la pancia il, diciamo così, una sorta di campanello d'allarme. Infatti abbiamo tutta una sorta di espressioni che esprimono. Me ne dica un paio, Walter. Qui a Napoli si dice schiattare nella pancia quando una persona è molto, molto ansiosa, molto arrabbiata, e quindi poi ha i dolori, i famosi dolori addominali, noi diciamo schiattare nella pancia. Schiattare. Schiattare. E poi un'altra che mi piace? Poi, vabbè, c'è la famosa farfalla nello stomaco, no? Però quella è italiana per tutti, sì. E ci fa capire che è una sensazione positiva che viene dal cervello, però è lo stomaco, diciamo così, abbiamo le famose farfalle, questa è la sensazione, una sorta di secondo cervello, come dice il vostro. Sì, che è vero, ed è stato proprio dimostrato, vero professor Barbanti? È proprio il secondo cervello, l'intestino. Certo. L'intestino ha il numero dei neuroni, cioè delle cellule nervose, che possiede il midollo spinale, sono 100 milioni, quindi una serie di fili nervosi impressionanti. Verrebbe da chiedersi, rivolgendoci a Walter, ma insomma, perché Madre Natura ha fatto un intestino così strettamente collegato al cervello? L'intestino noi lo immaginiamo come organo per eliminazione di scorie, no, l'intestino è un tratto, lo dirà magari qualche gastroenterologo meglio di me, per assorbire, quindi il mantenimento del nostro peso, il mantenimento del nostro benessere, il senso di sazietà, il senso di appetito, sono cruciali e vengono giocati assolutamente in maniera complice tra il cervello e il suo figlio prediletto, che, mi spiace dirlo da neurologo, è proprio l'intestino. Massimo, dalla provincia di Monza, Brianza, 800 24 0024, benvenuto. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie Massimo. Io, è la prima volta che intervengo per questo, perché effettivamente mi sento molto coinvolto, sono un rappresentante, sono in giro in automobile tutto il giorno e praticamente le telefonate che ricevo quotidianamente in questo periodo sono telefonate magari non sempre positive, nel senso che sono più problemi che le cose positive. Certo. E questo crea un accumulo, dire di tensione poco, nel senso che poi alla fine vedo che l'unica possibilità che ho per gestire tutto il mio corpo e per cercare di creare armonia ed evitare le problematiche che state parlando questa mattina sono quelle di quotidianamente cercare un'alimentazione migliore, di muovermi il più possibile e di rilassarmi, perché effettivamente ho notato che ogni telefonata, ogni problema mi crea mente dal cervello a mi crea stitichezza, mi crea gastrite, e solo così, cercando praticamente una qualità della vita migliore. L'unico problema che ho è che il lavoro non lo posso cambiare. Questo assolutamente, e per fortuna che c'è, Massimo. Per fortuna che bravissima. Ecco, perché però, di questi tempi bisogna tenerlo molto stretto, ma gli effetti si sentono, professor Barbanti. Beh, vorrei dire due cose, Massimo. La prima, quando noi siamo molto stressati e vogliamo riposare, vogliamo rilassarci, a pensarci bene, massaggiamo, facciamo le carezze all'intestino, cioè al tratto digerente, non alla testa. Raramente ci viene in mente di massaggiarci le tempie, a meno che abbiamo mal di testa. Facciamo invece dei respironi profondi, un respiro diaframmatico, e questo altro non è se non una stimolazione in qualche maniera poi anche vagale, quindi un messaggio agli organi contenuti nella cavità addominale, e quello può rilassarci. Questa è una cosa così strana. Volevo solo spiegare come mai sia possibile che la tensione che Massimo accumula alla guida si manifesti sul tratto gastrointestinale. Noi abbiamo la parte frontale del nostro cervello, che è un po' la parte azzecca garbugli, smista un po' la corrispondenza e gli imprevisti. Ebbene, quando questo non può uscire fuori con un canale verbale, perché la civiltà e la cultura ci insegna a trattenerci, prende l'ascensore e scende e va a coinvolgere una zona del cervello dal nome latino, la insula, che è mediatrice dei messaggi di dolore, a volte dei messaggi anche di disgusto, di fastidio, tutti indirizzati ai visceri. E quindi forse nell'insula, che per fortuna nel nostro cervello c'è, è identificabile il trait d'union tra il processamento frontale dello stress che Massimo ha quando riceve una telefonata e l'effetto finale, che è il mal di stomaco, il mal di pancia. Allora, voglio leggervi un messaggio da Francesca di Roma, che mi scrive al 349-238-6666. È per quello che si chiama intestino e non in pancino. Stare bene fa bene, se nasci spesso resti giovane sempre. E vuoi farmi star bene, se con la testa. E possiamo dire che quando sta bene lui, inteso come intestino, stiamo bene tutti. Se funziona bene, anche il cervello e l'umore ci guadagnano. Allora, prendiamocene cura, secondiamo i suoi desideri e i suoi gusti. E in linea con noi è tornato a trovarci il dottor Filippo Ongaro, vicepresidente dell'Associazione Medici Italiani Anti-Aging. Buongiorno, dottore. Bentornato. Buongiorno a voi. Allora, dottore, ci sono fior fiori di ricerche che sottolineano l'importanza della flora intestinale per il benessere di testa, di pancia e di altri distretti dell'organismo. Come si spiegano questi collegamenti tra intestino, batteri e salute psichica? Che abbiate già detto delle cose estremamente interessanti, e anche Nicoletta, come sempre, un grande occhio agli argomenti, perché è davvero un argomento molto interessante sul piano anche della ricerca. E oggettivamente tutto parte da una considerazione che bisogna fare, che è stata in parte fatta, che l'intestino non è un semplice tubo, ma è davvero un'interfaccia con il mondo esterno, interfaccia molto simile da questo punto di vista alla pelle, ai polmoni, a quegli organi che sono lì per farci interagire con il mondo esterno. L'intestino ha una caratteristica in più, ha un'ulteriore interfaccia in questa interazione tra la parte interna dell'organismo e la parte esterna, che è questa enorme massa di batteri che colonizzano l'intestino subito dopo il parto e che ci accompagnano per tutta la vita. Questo oggi viene chiamato addirittura microflora, è un vero e proprio ecosistema, una cosa estremamente complessa in cui questa massa di batteri contribuisce al nostro sistema immunitario, ma contribuisce anche ad altre funzioni complesse. Per esempio, oggi si sa che nelle persone obese ci sono delle caratteristiche della flora batterica molto diverse. Tipiche, bravissima, e diverse dalla persona normopeso. È un ambito di ricerca ancora in estrema evoluzione, quindi non abbiamo ancora capito tutto della flora batterica e delle sue interazioni con la salute, ma quello che è certo è che forse dobbiamo prendere in considerazione questo aspetto in maniera molto più allargata rispetto al passato, quando pensavamo alla flora batterica solo negli episodi, no, di diarrea acuta o nei bambini. In realtà è una componente fondamentale della salute quella di mantenere la flora batterica nell'equilibrio corretto. Oggi esistono anche dei test che permettono addirittura di misurare il livello di disbiosi, quindi di alterazione di questa flora, sono degli esami delle urine che si possono fare in maniera abbastanza facile. Quindi è un panorama molto ampio e molto interessante che secondo me aprirà le porte a nuove forme di intervento terapeutico in molte patologie. Quindi, dottor Ongaro, la flora batterica procura benessere in generale, ma sia alla pancia che al cervello, ma non è la sola. Ecco, io ricordo ai miei ascoltatori, anzi li metto un po' in allerta, perché se state attenti alla domanda del dottor Ongaro, riuscite a rispondere sicuramente ad una delle domande che abbiamo fatto all'inizio. Perché, dottor Ongaro, c'è un neurotrasmettitore che ha un ruolo chiave per il benessere dei due cervelli, la serotonina, che è chiamato anche il neurotrasmettitore del benessere e del buon umore. Sto cercando di aiutare i miei ascoltatori perché voglio dare a loro il libro. No, senza dubbio la serotonina oggi si sa che è prodotta in quantità molto elevate dall'intestino, addirittura attraverso un vero meccanismo di stimolazione meccanica, proprio lo stiramento della parete intestinale al passaggio del bolo attiva determinate cellule che producono la serotonina. Questa serotonina intestinale, va detto, ha la funzione principale di regolare la peristalsi, sì. Ma pare che, e qui si apre appunto un panorama molto ampio di potenziali ricerche, che in realtà questa serotonina poi vada in qualche modo ad influire anche su quello che è l'azione a livello del sistema nervoso centrale che questo neurotrasmettitore ha e che, come è stato detto, è principalmente legato alla regolazione dell'umore. Quindi capite che quadro complesso si sta aprendo a livello dell'intestino e dell'interazione che l'intestino ha con il resto dell'organismo rispetto, diciamo, a la formazione classica che vedeva l'intestino, insomma, in maniera abbastanza isolata dal resto dell'organismo. Dottor Ongaro, io la ringrazio, la leggeremo anche sul nostro Daily Lab e ci sentiamo presto. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, grazie al dottor Ongaro per essere stato con noi. 800 24 00 24 e noi abbiamo parlato di intestino, ma abbiamo anche un suo rappresentante, il professor Barbanti, come neurologo ha veramente parlato, tessuto le lodi di questo secondo cervello, ma in linea noi abbiamo il dottor Alessandro Repici, gastroenterologo e direttore del servizio di endoscopia digestiva dell'Istituto Humanitas di Rozzano, Milano. Dottor Repici, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Ne abbiamo parlato così bene di questo intestino, è contento, dottor Repici, anche in sua assenza. Sì, sì, siete stati bravissimi, mi sono collegato solo un attimo più tardi, ma ho percepito tutto quello che avete detto. La cosa interessante da rimarcare è un dato epidemiologico, per dirvi in sostanza quanto è importante il problema e che ricaduta ha sulla nostra salute, ma anche sulla nostra vita quotidiana. Circa un terzo delle visite gastroenterologiche vengono effettuate per questo motivo, vale a dire per disturbi dell'intestino che non riconoscono una patologia organica proprio dell'intestino. L'intestino non è malato in quel caso, non ha una malattia precisa, non ha un polipo, non ha un'ulcera, non ha un'infiammazione, ma si muove male. Lavora male solo perché gli input che arrivano dal nostro cervello lo fanno lavorare in condizioni, diciamo così, anche di stress intestinale. E professor Barbanti, come possiamo convincere questo benedetto cervello a mandare degli stimoli diversi al nostro intestino, che lo rassicurano un po', che lo facciano, non gli diano altri problemi, insomma, perché ne ha già tante da fare? Partiamo dalla fine, cioè dire all'intestino di non riportare poi al cervello tramite il nervo vago tutte le sue peripezie sarebbe crudele e credo sinceramente letale. Sì. Quello che si può fare è invece sapere, come diceva il collega, inquadrare bene problemi non chiaramente neuropsicologici o neurologici, appunto perché appaiono a carico dell'addome, pensiamo solo a quante persone, per esempio emicraniche, si rivolgono ai gastroenterologi per l'estrema vivacità dei sintomi, in questo caso non dolorosi ma del vomito. Mi piace anzi vedere le somiglianze che ci possono essere, una forzatura mia, ma direi che è stimolante anche per chi ci sta ascoltando. pensare che tutto sommato la colite sia l'emicrania del cervello, in entrambi i casi è un viscere sano, in entrambi i casi ci può essere familiarità, in entrambi i casi comincia ad attacchi, in entrambi i casi i cibi possono essere entro certi versi scatenanti, ma sotto c'è la grande mano dello stress. E quindi se non andiamo a guardare il viscere colpito, ma come la manifestazione avviene, cioè in forma subcontinua o in forma accessuale, senza una stigmata organica, beh, pensiamo che c'è un'unità, che è poi l'unità del nostro corpo, che richiede di essere analizzata e affrontata, a volte con farmaci, a volte interpretiamo questi sintomi per lo stile di vita. Noi abbiamo abolito la dimensione spaziale e temporale nella nostra giornata. Il fax sembrava aver fatto un miracolo, adesso invece il computer dentro le nostre mani con il cellulare. Questo fa malissimo al nostro intestino e alla nostra testa. E sono messaggi da capire. E insieme al dottor Repici cercheremo anche di capire quali sono invece i messaggi che un intestino infiammato, disturbato, manda al cervello. Perché c'è questo asse intestino e cervello, il cervello manda dei messaggi, ma l'intestino, anche a sua volta, manda dei messaggi al cervello quando è in una situazione di malessere. Restate con noi, 800 24 00 24, ricordate i nostri test di autovalutazione, aggressività, rabbia, buon umore e fame, da dove partono? Dalla testa o invece dalla pancia? Essere e benessere. Due meglio di uno, per fortuna ne abbiamo due di cervelli, lavorano insieme per il nostro benessere, l'intestino e il cervello. A volte abbiamo visto uno parla al posto dell'altro. Abbiamo Salvatore che invece ci parla da Salerno, 800 24 00 24. Buongiorno Salvatore, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Siamo qua. Io pensavo alla risposta di pancia, più che di cervello. Sì, ma per che cosa? Per l'aggressività, rabbia, per il buon umore o per la fame? Secondo me per tutto. Per tutto. Ma me ne dia una di risposta, perché se è così generico non posso prenderla. Me ne dia una, scelga lei. L'aggressività. Sull'aggressività lei dice che è pancia. Professor Barbanti. Avrebbe detto quel famoso presentatore, l'aggressività direi che viene poi diretta contro la pancia, ma l'aggressività è una questione che riguarda sostanzialmente le strutture nervose e quindi direi che è più questione di cervello, è l'attrito tra una indole, una personalità molte volte, una situazione ambientale e quindi direi che no… Mi sentirei di escludere che la pancia sia in causa, né solamente una vittima, una delle privilegiate, purtroppo predestinate. Alberto, dalla provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, dottoressa Nicoletta, perché ormai penso che ne sappia di più dei dottori. Alberto. Mi dica. Volevo rispondere alla prima domanda, ma purtroppo volevo dire cervello e allora... Va bene, dai Alberto, dopo questo complimento sono di partissima, gli facciamo arrivare a casa il libro, perché Alberto era un po' qua che da tempo che aspettava, poi mi ha fatto un complimento così gradevole, che ha gratificato. Sì. E quindi Alberto, grazie, riceverà a casa il libro in diretta proprio dalla libreria di Essere Benessere. Grazie ad Alberto della provincia di Bergamo. Dottor Repici, ma insomma, questa pancia quando sta male manda dei segnali anche al cervello. Allora, ci aiuti un po' a capire il malessere intestinale, come dobbiamo affrontarlo, che domande possiamo farci e che cosa possiamo fare? Allora, questo è un tema estremamente importante, perché i segnali che manda al cervello quando l'intestino è irritato o irritabile sono molto simili ai segnali che arrivano al cervello quando l'intestino invece ha una sua malattia. Sì. E qui sta proprio il compito del medico, sia del medico di medicina generale che successivamente dello specialista, è quello di essere certi che i messaggi che arrivano, arrivano perché l'intestino è irritabile. La diagnosi purtroppo è una cosiddetta diagnosi per esclusione, nel senso non esiste un test, una radiografia, un attacco, un esame del sangue che ci consenta, un'endoscopia che ci consenta di dire con certezza questo intestino è irritato o irritabile. E allora dobbiamo prima escludere tutte le cause note o quantomeno le più rilevanti, e dopodiché per esclusione cercare di capire anche con un appropriato inquadramento del paziente rispetto alle sue manifestazioni di ansia, ai suoi timori, al livello di stress, a tutta una serie di punti che possiamo sicuramente investigare con la collaborazione del paziente per capire quanto poi queste così manifestazioni intestinali in qualche modo possono essere correlabili a una partenza molto più alta che sta nel cervello. La cosa molto importante anche da ricordare, sì, è che spesso i pazienti vengono dal gastroenterologo, dallo specialista, dicendo: io non tollero quel cibo, non riesco a mangiare quel cibo perché quello mi fa peggiorare i sintomi, in particolare mi fa aumentare la diarrea o il mal di pancia. E è vero, però è anche vero che non esistono cibi che fanno bene a tutti o che fanno male a tutti, quindi attenzione, molto spesso vengono i pazienti con i passaparola per cui mia sorella non tollera un alimento, anch'io non tollero un alimento, mia cugina non tollera un alimento. Questo non è vero, ognuno di noi, soprattutto quando abbiamo l'intestino irritabile, abbiamo la nostra tollerabilità ad alcuni cibi, per cui dobbiamo inizialmente essere noi, i primi medici noi stessi, e fare una selezione, quei cibi che chiaramente aumentano i disturbi, fanno peggiorare il mal di pancia, fanno aumentare la diarrea o peggiorano la stitichezza, allora quelli sono da selezionare come cibi che in qualche modo il nostro intestino non gradisce, ma questo non è generalizzabile a tutti i pazienti, quindi conclusione, non esiste una dieta che in questi casi vada bene per tutti, ma va individualizzato il tipo di cibo ed escluso dalla dieta nello specifico paziente. Vi ricordo allora, a proposito di cibi, la nostra domanda sulla fame. Professor Barbanti, dato che mi stanno arrivando delle risposte via SMS e noto che insomma siamo un po' lontani, senza dare la risposta metta un po' sulla strada i nostri ascoltatori, diamo il cosiddetto aiutino. Proviamo a farlo così, proviamo a dire che quando una persona magari è un po' giù di morale può avere un certo bisogno di dolci, e proviamo però anche a dire che quando uno mangia troppi dolci poi non ha più fame. Ecco, mi sembra è un po' alla catalano, ma insomma direi mi che sembra un aiuto abbastanza consistente. Mentre per il buon umore, professor Barbanti, perché sempre diamo qualche così idea ai nostri ascoltatori senza proprio dare la risposta belle finita. Vorrei dare come idea questo: provate a dire a una persona che vi sia cara e che sia un buon gustaio di evitare di mangiare, di mettersi a dieta, e vedete la reazione che avrà, magari una persona un po' crapulona, vediamo se così riusciamo a sbilanciare un po', anche un po' forzatamente, i nostri ascoltatori verso la risposta. Abbiamo Andrea che ci chiama da Taranto. Andrea, buongiorno. Sì, salve, buongiorno, buongiorno. Allora, la risposta secondo me è a che è la cosa? Pancia, per quanto riguarda fame o buon umore? Sì, per il buon umore e la pancia. Per il buon umore e la pancia. Professor Barbanti? Ma io questa l'ho un po' forzata, in realtà sappiamo bene che il buon umore, se no sarebbe la depressione, sarebbe un problema digestivo, però è straordinariamente importante rispettare la pancia, quindi direi di sì, il buon umore viene anche dalla pancia. Mettiamo tutto assieme, il gusto, l'alimentazione, la crapula, la serotonina, la tavola, insomma una testa senza pancia non potrebbe avere il buon umore, quindi mi sento di dire, forzando un pochino, il buon umore viene dalla pancia. Ad Andrea da Taranto, fiducia totale. Dottor Repici? Il buon umore viene anche dalla pancia. Sì, confermo, mi trovo assolutamente in linea. Molto spesso anche patologie organiche dell'intestino inducono una sorta di malessere generale, di depressione, di tendenza al cattivo umore, per cui mi trovo assolutamente d'accordo. Vi faccio un esempio banale, che è quello della celiachia, che è l'intolleranza al glutine. Molto spesso i pazienti con celiachia rinascono dal punto di vista del tono dell'umore dopo la diagnosi, perché reintroducendo una dieta appropriata e ritornando ad avere una funzione intestinale normale, hanno un netto miglioramento del tono dell'umore, che in qualche modo gratifica anche il fatto che sono stati diagnosticati con una malattia che li terrà impegnati per il resto della loro vita. Allora, è lunedì, abbiamo tutta la settimana di lavoro davanti, vorrei farvi ascoltare una ricerca, poi andiamo subito a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, quindi io non rientrerò più, rientrerò subito dopo per commentare questa ricerca insieme ai miei esperti e soprattutto insieme a voi, gli amici di Essere Benessere. A tra poco! Chi non lavora? Chi non lavora? fa l'amore, cantava Celentano. Ma chi lavora troppo? Secondo uno studio finlandese, chi supera le 55 ore settimanali lavorative rischia di mandare in tilt il proprio cervello. I ricercatori di Helsinki hanno preso in considerazione 2.214 funzionari di mezza età che sono stati sottoposti a 5 diversi test per valutare le loro funzioni mentali. I risultati hanno dimostrato che più era lunga la settimana lavorativa, più diminuiva la capacità di ragionamento del soggetto in questione. Ripercussioni anche sul secondo cervello e in modo particolare per i turnisti. Il nostro intestino, infatti, lavora durante le prime 6 ore del giorno da quando siamo svegli e i turni sballano questo ritmo, causando dolori, gonfiori e stitichezza. Essere e benessere. Professor Barbanti, dottor Repici, allora, lavorare, stanca, ma sembra che se le ore di lavoro sono eccessive il nostro cervello ne sia in qualche modo danneggiato come attenzione e come memoria, ma anche il nostro intestino paga il conto. Dottor professor Barbanti, iniziamo dalla testa. Sì, io darei un consiglio. Non a caso quando noi siamo tesi e cerchiamo di fare dei grandi respiri, dicevamo prima, respiri che tendono ad abbassare il diaframma e in qualche maniera anche a carezzare il nostro apparato digerente. Noi dobbiamo evitare di vivere in apnea, è esattamente quello che stiamo facendo. Vivere in apnea mentalmente, evitare quindi di rinunciare a quegli ammortizzatori emotivi che abbiamo sempre avuto e che ora non abbiamo più. Se no, credo che gastroenterologi e neurologi saranno subissati da richieste di interventi per queste patologie che chiamiamo per il momento funzionali, perché una vera e propria anatomia patologica non esiste, ma che sono espressione del fatto che siamo fuori giri, quindi un consiglio: respirare, far respirare il cervello, questo in senso sia fisico che figurato ovviamente. Invece, dottor Repici, i ritmi di lavoro, i turni sballano un po' i ritmi intestinali. Allora, ecco, dolore, gonfiore, stitichezza. La ricerca ha colto nel segno. Perché? Un po' perché i turni alterano il nostro ritmo alimentare, quindi mangiamo in controtendenza rispetto agli orari normali e a ciò che è fisiologico. Per esempio, molti turnisti finiscono al mattino presto e fanno un pasto importante al mattino presto, quando il nostro intestino, così come il resto del corpo, vorrebbe dormire o riposare. Ma l'altro problema è anche che chi fa i turni ha anche delle difficoltà ad adattarsi per le proprie funzioni evacuative, per andare di corpo, perché se spesso non è facile nel corso dei turni potersi liberare e avere la giusta tranquillità per andare in bagno. Quindi questi due fattori insieme condizionano una cattiva funzione dell'intestino. È chiaro, non tutti i turnisti hanno questi problemi, ma è assolutamente vero che chi è sottoposto a un regime di turni, e questo soprattutto avviene per soggetti che affrontano lavori particolarmente stressanti, le ripercussioni sull'intestino sono molto rilevanti e vanno affrontate dall'inizio, perché se poi si cronicizzano sono molto difficili da correggere anche con le terapie mediche a disposizione. 800 24 0024, abbiamo ancora da scegliere da dare un libro per sulla fame, da dove parte la pancia o la testa. Maria Pia da Brescia, buongiorno. Ascolti, la mia domanda era questa: volevo sapere se le aderenze addominali possono essere determinate o sentite di più, diciamo, la sintomatologia dolorosa da un problema psicologico. Dottor Repici. Complimenti. Allora, intanto spieghiamo ai nostri ascoltatori cosa sono le aderenze. Sono molto frequenti? Sì, dentro la nostra pancia, quando le anse sono vicine una all'altra, spesso si formano dei ponti di tessuto, dei tralci di tessuto che mettono in comunicazione, che avvicinano le anse intestinali. Immaginiamoci una grande matassa con un tubicino che gira e che è avvolto dentro questa matassa. Allora, spesso le zone di contatto tra le anse intestinali dentro questa matassa si chiamano aderenze. Sono molto frequenti, soprattutto nei pazienti che hanno già subito un intervento chirurgico e nelle donne giovani. Quando queste ci sono, in qualche modo rendono le manifestazioni del colon irritabile più dolorose e anche più frequenti. E questo non è facile da contrastare, perché la vera terapia delle aderenze sarebbe quella di fare un reintervento chirurgico e di togliere tutte le aderenze una per una con un lavoro minuzioso, ma il fatto che una paziente abbia già sviluppato delle aderenze è quasi una garanzia che ritornino dopo un secondo intervento chirurgico. Quindi la non chirurgia serve. Non è dirimente. Fantastico. Bisogna essere ancora più accorti per le regole sull'intestino quando si ha un problema di sindrome aderenziale. Allora, noi abbiamo anche Cinzia che ci chiama dalla provincia di Ancona. Buongiorno Cinzia, 800 24 00 24. Cinzia. Buongiorno. Allora, io soffro di ernia iatale, però ho scoperto che, come il professore non accetta comunque sia una patologia psicosomatica, il termine più comunemente usato è questo. Volevo sapere quando... Come lei dice che l'ernia iatale è una malattia psicosomatica? Ma ci sarà una malattia in cui sicuramente l'effetto, no, dello psiche c'entra, ma dottor Repici, c'è una definizione precisa per l'ernia iatale, no? È una condizione ben specifica. La parte iniziale del nostro stomaco, invece di stare tutto dentro l'addome, cioè al di sotto del diaframma, tende a risalire al di sopra verso il torace. Ok, questa è la definizione. Anatomica. Professor Barbanti, Cinzia che ne soffre dice, certo ha un peso, è una malattia psicosomatica, il cervello quindi dice anche la sua, la mente. Ma certamente quando esista un problema di natura organica a carico di uno dei figli prediletti del cervello, senza voler rimarcare le primogeniture, è indubbio che la mente vada maggiormente lì e che questo non faccia altro che continuare ad attivare i meccanismi di magari di secrezione acida, quindi di dolore, di disfunzionalità del viscere, che ha una sua motilità che è controllata da nervi ma anche da sostanze umorali, da sostanze neurotrasmettitoriali e ormonali, e quindi direi, d'accordo con il collega Repici, è una malattia certamente di natura organica in cui poi la parte psicologica fa il resto. Cinzia, d'accordo? E allora sono d'accordo e volevo chiedere al professore come attraverso farmaci interrompere questa catena causale tra corpo e mente. Allora Cinzia, né il dottor Repici né il professor Barbanti possono dare naturalmente terapie, la nostra è una trasmissione che insegna a prenderci cura di noi, a vivere meglio, non fanno i nostri esperti delle diagnosi telefoniche, ma sicuramente un aiuto alle persone che si ritrovano in questa situazione, quindi con un problema legato all'intestino in cui la psiche ha sicuramente un'influenza, possiamo darlo. Professor Barbanti, dottor Repici, un consiglio a testa e poi noi ci salutiamo. Intervengo subito. Certamente curare molto bene il reflusso con farmaci dedicati fa stare molto meglio anche dal punto di vista psicologico, perché spesso il reflusso dà sintomi notturni, questo disturba il normale ritmo del sonno veglia, in qualche modo aumenta poi i disturbi durante le ore diurne, quindi curare bene il reflusso controllando anche i sintomi notturni. Professor Barbanti, rapidamente in 30 secondi una da parola al cervello. Da neurofarmacologo rispondo con un consiglio alternativo: farei lo yoga fatto bene è uno straordinario metodo per bilanciare il sistema nervoso vegetativo, simpatico e parasimpatico, e controllare al meglio la motilità viscerale e anche il controllo della propria motilità. Così la strana coppia torna in armonia. Grazie al dottor Repici, al professor Barbanti, a voi. Grazie a voi che siete stati con noi. Cosa vi devo dire? Di scaricarmi, di andare sul nostro Daily Lab e di tornare domani. Il nostro profilo Facebook è a vostra disposizione. Buona giornata da Nicoletta. Essere e benessere.